Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel 1973 un uomo evade dal carcere di Stoccolma, tenta una rapina in una banca e trattiene in ostaggio per 6 giorni 4 persone. Dopo 131 ore di assedio della polizia l'uomo si arrende, non ci sono azioni violente né da parte del sequestratore né da parte della polizia. Bene, nei giorni successivi i 4 ostaggi dichiararono di aver avuto più paura della polizia che del sequestratore, provando verso quest'ultimo una forma di simpatia e di gratitudine per non avere fatto loro del male. Questo comportamento, che deriva da una situazione di forte stress psicologico, viene da allora definito sindrome di Stoccolma. Oggi racconteremo la storia di una giovane ragazza che è stata rapita e successivamente plagiata fino al punto di diventare complice dei propri carcerieri. Questa è la storia di Patricia Hearst. Ho avuto un'infanzia normale. Le mie 4 sorelle e io non siamo state allevate come bambine ricche. Eravamo delle privilegiate, persino super privilegiate, ma non viziate. Io sapevo cosa era bene e cosa non era bene fare. Tutto è stato abbastanza facile per me. Sport, relazioni sociali, impegni scolastici, la vita. Sono cresciuta in un ambiente protetto, terribilmente sicuro. Sapevo, o pensavo di sapere chi ero. Siamo a Berkeley, in California, dove Patricia Campbell Hearst frequenta l'università. Febbraio del 74, lei non ha ancora 20 anni. In realtà lei dice di essere cresciuta con un'infanzia normale, però non proprio normalissima, perché suo nonno William Hearst è stato un membro della Camera dei Deputati, fondatore di un impero editoriale, quello che oggi chiamiamo Hearst Magazine. Possiede giornali settimanali Marie Claire, Esquire, Cosmopolitan. Quindi Patricia è una ricchissima rampolla della ricchissima borghesia americana. E però siamo negli anni 70, che sono anni di contestazione giovanile. È appena finita la guerra del Vietnam, i giovani americani hanno pagato con la vita un grosso debito verso la loro nazione e c'è un ambiente di malcontento generale, soprattutto tra i ragazzi e soprattutto quando i ragazzi sono anche poveri, magari anche di colore. Le minoranze non vengono rispettate oggi, figuriamoci negli anni 70. Patricia Hearst, la sera del 4 febbraio, 2 settimane prima del suo 20° compleanno, è in casa sua, ma non immagina che la sua vita sta per cambiare radicalmente. Ero nel mio appartamento e qualcuno bussò alla mia porta. Quando aprii, delle persone armate entrarono in casa e mi rapirono. Io ero solo una studentessa di college e certo non pensavo che mi potesse accadere una cosa del genere. A me interessava solo frequentare l'università e prendere la laurea. La ragazzina Patricia Hearst non ha fatto i conti con Donald DeFreeze, un 30enne di colore. Ha vissuto la sua vita uscendo e entrando dalla prigione. È un contestatore. Ha fondato un gruppo eversivo chiamato Esercito di Liberazione Simbionese, un gruppo di estrema sinistra che dal 73 invoca una rivoluzione proletaria contro le ricche famiglie americane. E Patricia Hearst rappresenta proprio quello, le ricche famiglie americane, che sono il nemico perfetto e soprattutto la preda perfetta. Patricia Hearst viene prelevata da un gruppo formato da 2 uomini e 1 donna. Il suo rapitore, il capo, Donald DeFreeze, ha assunto il nome di battaglia di generale Sin Q. Poi c'è un altro suo amico, Bill Harris, e sua moglie, Emily. Viene messa nel bagagliaio, Patricia, e portata in una casa poco lontana dove viene rinchiusa in un ripostiglio buio. E per lei inizia un periodo di fame, sete e maltrattamenti, sia fisici che psicologici, da parte di tutti i componenti di questo rudimentale esercito. Io sono Sin Q, sono il generale feldmaresciallo dell'esercito di liberazione simbionese. Sei una prigioniera di guerra. Tratteremo per uno scambio di prigionieri per liberare 2 nostri compagni che sono attualmente detenuti, picchiati e torturati nelle prigioni fasciste d'America. Patricia Hearst, figlia di Randolph Hearst, nemico corporativo del popolo. Questo è uno dei 5 arresti compiuti nel paese dalle unità combattenti dell'SLA. ed è stato effettuato secondo le regole sancite dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. C'è una rivoluzione in corso in questo paese. Il popolo ha dichiarato guerra al governo fascista americano. La rivoluzione è in atto in questo momento, puttana, nella cara vecchia America! Insomma, questo è il clima, stiamo un po' delirando. Tre giorni dopo aver rapito la ragazza, l'esercito di liberazione simbionese fa le sue richieste di riscatto, la liberazione di due attivisti che erano stati accusati di un precedente omicidio e che erano detenuti nelle carceri americane. Però il governo degli Stati Uniti, e lo ha ribadito tante volte, non tratta con i terroristi, quindi c'è una seconda richiesta, più proletaria se vogliamo, insomma più accomodante. La richiesta è quella di distribuire pasti gratuiti ai bisognosi, prima per un valore di 4 milioni di dollari e poi per un valore che aumenta nel tempo, diventa 400 milioni di dollari. In pratica, i terroristi vogliono che la famiglia Hearst un po' alla volta sfami tutti i poveri d'America. È una richiesta anche lodevole sotto certi punti di vista, però ovviamente impraticabile, perché la famiglia Hearst, che intanto mette sul piatto 2 milioni di dollari e dà subito vita alla creazione di una serie di centri di distribuzione di cibo, crea il panico in questi centri. Nel giro di qualche giorno il piano deve essere sospeso, ovviamente per questioni di ordine pubblico, e la grande utopia è totalmente irrealizzabile. Intanto il gruppo si sposta da una casa all'altra, lei viene tenuta segregata in piccoli sgabuzzini, gli uomini del gruppo abusano di lei perché è anche carina, e intanto le donne la lavano, la accudiscono e le parlano a proposito di quanto sia bella la libertà e la lotta armata, e le decantano le ragioni che sostengono la rivoluzione simbionese. Insomma, inizia un lavoro sistematico di lavaggio del cervello nei confronti di una ragazza in evidente stato di sofferenza. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Patricia Hearst, figlia di una delle più ricche famiglie d'America, in mano ai suoi carcerieri, perché è stata rapita. Di tanto in tanto vengono inviate alla famiglia delle registrazioni audio in cui lei afferma di stare bene, di essere trattata bene, insomma le solite confessioni estorte con la forza per far sembrare che i carcerieri siano delle persone a posto. Tutto il contrario invece, perché la Hearst comincia a dare segni di cedimento dal punto di vista psicologico, mostra i primi sintomi di quella che viene definita la sindrome di Stoccolma, solidarizzare con i propri carnefici. Lei nutre dei dubbi sul fatto che la sua famiglia stia realmente cercando di liberarla, simpatizza sempre di più con le idee professate dai membri di questa strampalata e delirante rivoluzione simbionese. Sono stata educata molto bene su quel che avrei dovuto fare. Stare rinchiusa per mesi dentro ad una specie di armadio, abusata in tutti i modi. Avevo perso la mia libertà. Non riuscivo più a prendere una decisione da sola e non mi permettevano di pensare alla mia salvezza. Mi ritrovavo ad aver paura anche di questo. E la situazione precipita, c'è la paura di venire abbandonata, c'è una fragile mente di una diciannovenne che viene privata della libertà e di tutti gli affetti su cui si basava la sua vita di tutti i giorni. Insomma, lei comincia a crollare sotto i continui condizionamenti psicologici a cui viene sottoposta. Mi è stata data la possibilità di essere rilasciata in una zona sicura o di unirmi alle forze dell'esercito di liberazione simbionese per la mia libertà e la libertà di tutti i popoli oppressi. Ho scelto di restare e di lottare. La scelta di Patricia Hearst lascia senza parole i genitori e ovviamente tutta l'opinione pubblica. Si parla chiaramente di lavaggio del cervello. Non è possibile che una persona possa cambiare radicalmente le sue idee sposando la causa dei terroristi che l'hanno rapita e maltrattata. In una registrazione successiva lei adotta anche un nome di battaglia, non è più Patricia Hearst, è Tania. Molti continuano a pensare che le registrazioni siano solo il frutto di un'abile manovra di propaganda in cui la giovane viene costretta a ripetere frasi che non condivide, ma il 12 aprile del 74 Due mesi dopo essere stata rapita, Patricia Hearst viene ripresa dalle telecamere a circuito chiuso di una banca di San Francisco. Indossa pantaloni da combattente, un cappello, tiene tra le mani un mitra. È un'immagine che passa alla storia. Patricia Hearst diventa da personaggio rapito a rivoluzionaria simbionese. Passata l'incredulità iniziale, passata l'angoscia di vedere le immagini di Patricia armata all'interno di una banca, prevale la razionalità dell'FBI, che alla luce dei fatti comincia a accantonare l'idea di un lavaggio del cervello per adottare una tattica più offensiva. Un conto è considerare delle frasi ripetute meccanicamente a un nastro, un conto è vedere una persona imbracciare consapevolmente un mitra e minacciare dei cittadini americani innocenti. Nei confronti di Patricia Hearst viene emesso un ordine di cattura al pari degli altri terroristi. Ha inizio la caccia. Un mese dopo la Hearst partecipa a una seconda rapina, questa volta rimane in macchina pronta a coprire le spalle dei compagni nel caso in cui fosse arrivata la polizia. In quella macchina, come la stessa Patricia Hearst racconta in una celebre intervista rilasciata a Larry King, i dubbi tormentano la ragazza. Seduta in macchina, aspettando gli altri che erano dentro alla banca, provavo una sensazione di sollievo. Ero contenta di non essere entrata in banca quella seconda volta, anche se ero molto concentrata affinché ai miei compagni non succedesse nulla. In ogni caso, ero convinta che fosse molto meglio restare fuori. E a quella rapina ne segue un'altra ancora, vengono ferite delle persone, l'FBI comincia a stringere la morsa attorno ai terroristi, alla fine identifica il covo dove si nasconde il gruppo. Non tutti però, perché Patricia Hearst e i coniugi Harris non sono in casa quando l'FBI accerchia la casa, ingaggia un conflitto a fuoco, i tre si trovano in un'altra casa e da lì attraverso la televisione vedono i colpi di pistola distruggere i vetri dell'appartamento, poi il lancio di lacrimogeni e alla fine un incendio che divampa all'interno di una casa fatta di legno come molte case americane. E in diretta TV va in onda un rogo nel quale perderanno la vita sei terroristi, tra cui il generale Sin Ku. Patricia si trova con Bill Harris e sua moglie e cominciano a darsi alla fuga. Reclutano nuovi simpatizzanti per la causa simbionese. Harris diventa il nuovo leader del nuovo gruppo. Lui era diventato il leader dopo che Donald DeFries era stato ucciso. Sua moglie Emily lo criticava spesso per le sue scelte, ma eseguiva gli ordini come un buon soldato. Spesso bisticciavano, ma alla fine prevaleva il codice di guerra della rivoluzione e tutti seguivamo il leader religiosamente. Bound by, you know, the SLA codes of war and they followed them very religiously. Insomma, regna la follia in questo gruppo e il 7 giugno 74, a soli 4 mesi dal suo rapimento, Patricia Hearst diffonde un altro comunicato nel quale dichiara di voler continuare la lotta anche in onore dei compagni uccisi in quella che anche lei ormai considera una guerra. E lei non va via, lei rimane a combattere. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Patricia Hearst, la giovane figlia di uno dei più importanti magnati dell'editoria americana. Una ragazza ricchissima che nel febbraio del 74 viene rapita da un gruppo terrorista chiamato Esercito di Liberazione Simbionese e che dopo 4 mesi di segregazione e torture viene colpita da quella forma di sottomissione passiva che viene chiamata la sindrome di Stoccolma. Insomma, diventa membro del gruppo eversivo che l'ha rapita. Dopo essere scampata a un primo arresto durante il quale vengono uccisi molti suoi compagni, fugge attraverso la California in compagnia di Bill Harris, il nuovo capo, e di sua moglie Emily, reclutando nuovi combattenti per la loro irrealizzabile e folle guerra alle istituzioni americane. Si facevano chiamare esercito e volevano reclutare altra gente per poi dividersi in cellule più piccole ed attaccare in diverse direzioni, con il solo scopo di creare un clima di caos e portare la guerra in tutto il paese. Trascorre ancora un anno e l'esercito di liberazione simbionese compie altre rapine perché deve sostenersi economicamente per potersi rinforzare, per poter compiere atti terroristici sempre più grandi, però il bottino è limitato a poche decine di migliaia di dollari, insomma il gruppo più che un esercito sembra veramente un'armata brancaleone, fino al 28 aprile del 75, quando durante una rapina alla Crooked National Bank una donna viene uccisa da una fucilata partita da uno dei terroristi. E qui le cose cambiano, il fatto sconvolge l'opinione pubblica, riaccende i riflettori sull'esercito simbionese e sulla storia di Patricia Hearst. Dopo pochi mesi, il 18 settembre, 591 giorni dopo il suo rapimento, Patricia Hearst viene arrestata. Per me, FBI, non muovetevi. Avete il diritto di restare in silenzio. Avete diritto ad un avvocato. O ti faccio saltare la testa. Voltati, sei tu, Patty Hess. Sei in arresto per la rapina a Liberty Bank del 15 aprile 1974. Sei contenta che sia finita, Patty? Potrei cambiarmi i pantaloni. Me la sono fatta addosso. Ok, ma dobbiamo venire con te. Quando sono stata arrestata e prima che iniziassi la terapia riabilitativa, mi sentivo malissimo. Provavo un profondo senso di colpa e il mio malessere derivava dalla consapevolezza che in tutti quei mesi la mia mente era stata prigioniera e io non avrei mai immaginato che avrebbe potuto accadere una cosa simile proprio a me. Il processo contro Patricia Hearst diventa un caso mediatico senza precedenti perché l'opinione pubblica si divide in due. Da una parte ci sono, diciamo, gli innocentisti, cioè quelli che sostengono che lei ha solo subito un lavaggio del cervello, che la sua mente è vittima della stessa sua fragilità. Dall'altra invece ci sono i colpevolisti, secondo i quali lei era ben conscia di quello che stava facendo, aveva avuto molte occasioni per scappare, non l'aveva fatto realmente. Insomma, 3 mesi di processo e il giudice che non crede all'infermità mentale e Patricia Hearst viene condannata a 35 anni di galera, 25 per rapina a mano armata e altri 10, pensate, in America per detenzione d'armi. Durante la detenzione Patricia Hearst vive il suo colpo d'ala ritroso, cioè riprende possesso piano piano delle sue volontà, guarisce da quello stato confusionale che l'aveva portata a imbracciare un mitra, a rapinare banche, e lei è sempre una ragazza incensurata, figlia di un grande editore. Insomma, il caso è veramente anomalo per la storia del mondo. Pensate, adesso lo dico per spiegarmi, con rispetto per la famiglia e per i tifosi del Milan, è come se Barbara Berlusconi, invece che andare a cena con Galliani e la sua cravatta gialla, andasse in giro a rapinare banche. Quindi capite lo shock dell'America per una situazione che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. E proprio per questa inconsueta situazione la Hearst rimane in carcere solo 22 mesi e la pena intanto viene ridotta da 35 a 7 anni e poi il presidente Carter le consente di scontare la pena ai domiciliari. Quindi nel 79, solo 5 anni dopo l'inizio di questa sua terribile avventura, Patricia Hearst è di nuovo una donna libera, almeno fisicamente, perché per quello che riguarda la sua libertà mentale deve convivere con i fantasmi del suo recente passato. È qualcosa che ti ferisce profondamente. Dopo quello che è accaduto, io non sono più riuscita a fidarmi di nessuno, anche se in alcuni casi devi fare delle scelte e sei obbligata a farlo. Ma cambia la percezione che hai della gente, e questa è una sensazione che rimane per tutta la vita. L'odissea continua, perché è vero che lei ha i domiciliari, ma comunque deve scontare ancora una condanna di 7 anni. Agli inizi degli anni 80 però arriva Ronald Reagan, che decide di concedere l'indulto, quindi la pena viene cancellata. Nell'82 sposa una delle sue guardie del corpo, inizia una vita normale, scrive un libro in cui racconta la sua storia, intraprende la carriera di attrice, partecipa a film anche se non da protagonista. Insomma, il tempo cancella le sofferenze e i ricordi, ma proprio quando tutto sembra essere stato accantonato, nel 2001 vengono finalmente arrestati i coniugi Harris, quelli che erano scappati con lei, che andavano in giro, il nuovo capo dell'esercito simbionese. e grazie alla tecnologia con le analisi sul DNA vengono incriminati dell'omicidio della donna uccisa durante la rapina in banca del 75 e Patricia Hearst è costretta a andare a testimoniare. Erano due dei sopravvissuti e vennero arrestati per la rapina in banca. Poi a quello si aggiunse anche l'accusa del mio rapimento ed è per questo che fui chiamata a testimoniare. Per me fu un sollievo il fatto che vennero arrestati e dichiarati colpevoli. La vendetta, dice il proverbio, è un piatto che va servito freddo e in realtà così accade perché i coniugi Harris vengono condannati per l'omicidio della donna nella banca, per il rapimento proprio di Patricia. E ancora più grottesca è la storia di un'altra terrorista dell'esercito di liberazione simbionese, Kathleen Ann Solliah. Perché questa ragazza, questa donna, scompare nel nulla nel 76, cambia identità, cambia il nome, diventa Sarah Jane Olson, sposa un medico, ha tre figlie, vive una vita impegnata nel sociale nella parrocchia del Minnesota, finché nel 99 il programma America Most Wanted la smaschera e la fa arrestare. Sentite la testimonianza disperata di una delle figlie che scopre improvvisamente che la sua dolce mamma in realtà era una spietata terrorista. She's one of the best mothers anyone would ever want. I'm sure it'd be better. Le testimonianze di Patricia Hearst permettono a tutti i sopravvissuti colpevoli del suo rapimento di essere condannati, anche se oggi sono praticamente tutti fuori dal carcere, chi è libero per aver scontato la pena, chi invece in libertà condizionata. In ogni caso, Patricia Hearst chiude definitivamente questo capitolo della sua vita, almeno dal punto di vista sociale. Nel 2001, infatti, Bill Clinton le concede la grazia. Insomma, alla fine per lei si sono scomodati tre presidenti degli Stati Uniti. D'altronde la famiglia Hearst è ancora oggi una delle più ricche e influenti del paese. E lei però non ha dimenticato quei 591 giorni vissuti con la mente di un'altra persona. La mia vita non è stata più la stessa e neanche quella dei miei genitori. La mia vita è cambiata quando avevo 19 anni. Ho smesso di essere una ragazzina e mi sono ritrovata una adulta, perseguitata da quello che era successo. Sono riuscita comunque ad andare avanti, sapendo che nel mondo ci sono molte persone malvagie. Eh sì, persone malvagie, insomma, è una vita veramente difficile la sua, che rimane difficile anche dopo, perché gran parte dell'opinione pubblica continua a non credere al fatto che la sua mente fosse stata manipolata e negli occhi sicuramente delle persone che incontra, che ha incontrato nella sua esistenza, ha notato questa diffidenza, questo fatto che molti l'hanno considerata una persona pericolosa, traditrice dei sacri valori americani. E anche in questo forse lei ha saputo mostrare un colpo d'ala positivo, lento e inesorabile, con il quale è riuscita a riconquistare il suo posto nella società, un posto che le era stato strappato una sera di febbraio di tanti anni prima. Oggi abbiamo voluto raccontare quanto sia volubile la mente umana, come reagisca in modo inaspettato se sottoposta a situazioni di stress. Qui veramente è difficile per chi non ha vissuto una situazione del genere scagliare la famosa prima pietra. Una vita complessa e assolutamente unica nel suo genere. Chi avesse voglia di sentirci raccontare delle storie che lui ha in mente, ci scriva al falcoilgabbiano@radio24.it oppure interagite con me sul sito o sui miei social, Facebook, Twitter, sui nostri social, insomma, se mi cercate, mi trovate. Ciao, a domani.